la lotta armata come nel 70. E non è gente guasta, ma è gente dispersa, che ogni cosa l'ha persa. E la rabbia è la ricompensa rimasta. Guardiamo il grande fratello e non sappiamo che è lui che ci guarda. C'è chi resta nella mischia, in lizza, fascisti bastardi che sono i primi della lista nera come ciò che indossano. Preghiamo un idolo, Berlino morto disciolto nell'acido. Pianti e gemiti, ma i paradisi ci attendono. I potenti ci ignorano, poi si spartiscono mezzi mondi. Coi fratelli d'oltreoceano è una vita stelle e strisce. Ma le stelle sono un sogno e le strisce sono strisce di tritolo. Le BR sono tornate, le resumate. Loro sono servi dei servi come se arriva Spinoza. Sono servi a Forza Nuova, sono servi ancora e saranno servi morti sull'ennesima bomba esplosa. Chiedi perché io non parlo, chiedi perché io non guardo, io non sento, sto volando. Sai che non c'è un senso, dici che si deve fare, ma che fai? Che fai? Dici che si deve dare, ma che dai? Si dice che col tempo passa, il progresso avanza e il mondo sbaglia. Il sangue inevitabilmente resta. Ancora oggi c'è chi non ci merita. Ancora oggi c'è chi questo male non lo merita. E per te restano soltanto volti. Cambi canale e manco te ne accorgi. Non sono oggetto ormai dei tuoi discorsi. Già, sono solo dei ribelli. Voci spezzate con manganelli. Castelli di potenti pagati dagli innocenti. Sbandati che non sanno riconoscere i valori più importanti. Tu ascolta fede, son senza mete e senza sede. Son loro la causa di tutto quello che succede. Fanculo la tua storia e quello che ci insegna. Il tuo capo tiranno con tutto quello che guadagna. È una voce che spegne, una bocca che cuce. È un sorriso che prende dietro le insegne della pace. Chiedi perché io non parlo, chiedi perché io non guardo, io non sento, sto volando. Sai che non c'è un senso, dici che si deve fare, ma che fai? Che fai? Dici che si deve dare, ma che dai? Sono estintori contro Beretta, è una camionetta che cancella una faccia. Sono bombe in piazza o son treno che avanza. Sono processi alla giustizia e sensi di colpa chi si salva. L'ha fatta grossa chi quel giorno era in piazza. Loro sono l'Italia, noi Brescia, Milano e Bologna e manganelli in testa. Quando la folla rumoreggia, io non mi fido, fa il figo col tunisino, bocchino al mafioso che addio. Divise a strisce rosse, sono il sangue delle stragi fatte e nascoste agli occhi di chi non cerca risposte. Paghi le imposte sul mensile, ma la tangente esentasse. Ero un operaio e tal in provincia, sono Kaiser Sose, tu sei Winchester con trip da Tex Wheeler. È un fight club come Tyler, ma hai perso perché comunque resisto. E nonostante tutto boicotto ancora il G8. Dove sto volando? Good life, people, and welcome on the magic waves of Linea D Confine Radio. Today we present a wonderful song by a new band from Brescia, Italy. They are called The Triade, and they sing Sotto Effetto 1.0 from the album Musici Atlantide, recorded at the Di Stretto in 2005. They are Nico, Doc MC and Zorba. Sotto Effetto 1.0.